de carcasas para impunemente practicar la estafa en masa. ¡Qué brillante ocurrencia, maravilla de la ciencia! ¡Aumentemos todos el caudal de su excelencia! Aunque tengas más poder que los testículos de Dios, no me robes más monedas o me diga Karen Ross. Y te va a incular con frío el portachón de zumo sol. Por cerdo y por mongol le diremos que te rapte, te maltrate y te enlate, como hiciste aquella vez al pobre López Vázquez. Y su tranca enorme en tu culo deforme bailarás hasta que no firmes un papel que diga: esas duchas de chatarra de tamaño garrafón son la obra de un macarra que merece un bofetón, un cleptómano de mierda, celador de requesón a bordo de un puto. Pedalastas tu postizo capilar, tu puta madre te los va a costear, que te vamos a empalar con un taco de billar, un millón de pesetas de franco colgar, con palomas de espanto en tu bolsa escrotal. Devuélvenos la pasta, ricachón. Power. Thank you. Thank you. a rimembrare l'odore della sera, colore del tramonto, il gusto del rumore di un pianto innocente, fuso e disperso, di lacrime asciutte, sofferte ma rimpiante. Formando i colori che vedo, ora riesco a accettare il dolore di non poter più osservare il potere. Respiro, convinto d'essere vivo, ma l'anguilla annuisco i tuoi giri. Lacerato, continuo il mio declino, evitando di lasciarmi sofferente. Respiro, convinto d'essere vivo, ma l'anguilla annuisco i tuoi giri. Lacerato, continuo il mio declino, evitando di lasciarmi sofferente. Unirà diverse opinioni, tra gli stessi problemi, il mio prossimo è sangue versato, lo odierò come odio me stesso. Respiro, convinto d'essere vivo, ma la guida annuisco i tuoi giri. Lacerato, continuo il mio declino, evitando di lasciarmi sofferente. Respiro, convinto d'essere vivo, ma la guida annuisco i tuoi giri. Lacerato, continuo il mio declino, evitando di lasciarmi sofferente. Yeah. violencia, libertad, la lucha de base. ¡Silencio! ¡Fuerte! assoluto. La seconda è che si quando nel distante tu ti siedi, ti sente la pressione della bestia. La situazione qui non cambia, la merda è la sua merda. Cadi la strada, razza passata. La mano sotto culo, lo dico, lo stesso motivo. E la gente accende tu mi avrò detto negativo. Sbaglio nella violazione, perché qualcuno mette fine alle storie di un guaglione. La stazione strada sarà mille, vivo questa situazione sotto la mia pelle. Giorno dopo giorno, notte dopo notte resto allerta. Guardo le mie spalle, anche se la strada è deserta. Stesso film, stessa storia. Ne faccio salvato, quindi resta in memoria. tira la larga.